is Fujiko Easy Pop. Third time we tried to contact by radio, no response. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Ed eccoci pronti qui, puntuali sulle frequenze dei 103-100 in modulazione di frequenza, insieme a Franco Paoletti che vi sta parlando, e al di là del vetro ovviamente l'indispensabile, oserei dire, Bolognese Volante. Benvenuti in quello che è ovviamente Easy Pop, un'ora di musica indie, un'ora di musica italiana e non. Andiamo a scartabellare tra le uscite discografiche e indipendenti che cosa c'è di bello e buono, e vi segnaliamo ovviamente tanti artisti molto interessanti che magari non passano molte volte sul mainstream, però insomma ci siamo, e ci siamo anche noi delle appunto le piccole radio indipendenti che appunto danno spazio a tutti questi artisti. Oggi domenica 18 dicembre 2022, puntata numero 49, che dire, che siamo pronti con appunto a scaldare i motori e ascoltare ovviamente le uscite discografiche. Con che cosa si inizia, regia? Con Matilde. Ciao, come stai, Paoletti? Credo che lo sapessi, c'è la playlist, guardandola. Certo, ma volevo introdurre il nostro Bolognese Volante, perché non solo è alla regia, ma insomma parla ogni tanto. È lei che mi fa violenza e mi fa parlare. Buongiorno e buon pomeriggio e buona domenica a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. È quasi Natale! Eh già, ci siamo, però sul piatto numero uno attende Matilde con Ciao, come stai? Ascoltiamola! Incazzarsi senza avere nulla osta, fare forti per orgoglio, punto e basta. Ascoltare quelli pro e quelli contro, e un volgare me ne frego che c'hai dentro. Ciao, come stai? È passato un anno di fanatiche incertezze. Dove sei? Cosa fai? Mangi ancora le schifezze, amore? Come stai? Svegliarsi con Beethoven nella testa e aspettare non sai cosa alla finestra. Stare in macchina con il motore acceso, poi partire per un viaggio non deciso. Ciao, come stai? Chi lo sa se odi sempre metterti la giacca. Tu chi sei? Non lo sai. Un po' saggio ed un po' matto, amore. Alleluia. Che sei tornato, sembra vero, ma forse l'ho sognato. Riguardare un album di fotografie, specialmente quelle che eravamo in due. Faccio l'orso come te ogni mattina, anche se non sarà tutto come prima. Ciao, come stai? Viaggi sempre con l'ombrello anche d'estate. Mi dicevi, lo sai, ci ripara dal diluvio delle cose. E alleluia, te che sei tornato. Non ci credo, ma l'avrò immaginato. Eccola qua, si chiama Matilde. E quest'artista davvero interessante, una voce piena, interessante, che ci ha presentato Ciao, come stai? Matilde, dunque, sulle nostre frequenze, ha una storia un po' particolare, perché lei è anche una vocalist, ha fatto da vocalist per esempio a tanti artisti, non ultima Iskra Mernarini, che bene conosciamo, e poi Lucio Dalla. E poi cosa c'è da dire, che dunque per lei ci sono dei premi musicali davvero interessanti. Dunque allora devo elencarli tutti: il premio per esempio in finale per il premio Pierangelo Berti sottolineo il finale anche per quello di Mia Martini, ma non solo. Poi ha vinto altri premi, insomma, nel mondo musicale, e questa volta ritorna alla musica con questo "Ciao amore, come stai", scritta poi da un grande maestro della musica italiana, che poi ha per esempio firmato la colonna sonora di Mediterraneo, e sto parlando del maestro Falagiani. Beh, un interessante ritorno per una voce davvero interessante. A questo punto io direi di andare avanti con la prossima. Si chiamano The Bankrupt e ci presentano Kill My Name, e di loro ve ne parlo fra poco. I think you're paranoid. Don't bother me, boy. I wish I had a choice. I can't stand your voice. Somebody killed my neighbor. I could do a real time face off. Somebody killed my neighbor. So tell me, is there another place? It's a beautiful day. Is there another place? It's a beautiful day without you. 'Cause I just need time to erase. It's a beautiful day without you. Tell me, can I repeat? Una band inglese, che anzi no, una band italiana che parla in inglese, e il loro nome lo devono all'anonima anonima canzone dei Clash, appunto The Bankrupt. La formazione attuale è composta da Giacomo Oberti e da Maddalena Oberti, appunto, con Neri Bandelli, e pensate un po', il gruppo nel 2009 vince Rock Targato Italia, e poi nel 2012 entrano a far parte nel disco Le Canzoni e Testimoni di Enrico Ruggeri, e poi via via, insomma, una manciata di successi, diciamo, e proprio diciamo successi di preferenza, e soprattutto grazie alla rete diventano così, insomma, diventano cool, come si suol dire, e poi anche le apparizioni a MTV New Generation, e piano piano riescono a ritagliarsi il loro posto al sole e arrivano alla Rec, l'etichetta, insomma, è la label di così di musica indipendente davvero davvero, insomma, importante. Sì, vabbè, no, non era proprio così, però insomma salutiamo David Bonato, che ci così sostiene, ci dà sempre dei nomi molto molto accattivanti, interessanti per quanto riguarda la musica italiana, un po' più rock, vero, un po' più che esula un po' dal pop. A questo punto invece vi presento Gabriele Parisi, che ci canta "Ci pensavo". A volte la vita punta a colpirti. Non esisterebbe vita senza momenti tristi. Mi sentivo cadere il mondo mentre ero sotto la pioggia. Mi sono promesso che stavolta è l'ultima volta. Volevo andare via, ma con la testa. Cercavo di cambiare strada, ma prendevo sempre la stessa. E ricordo ancora quanto bene ho fatto Amici che tendono a dare la mano ma poi se ne vanno. I momenti tristi non li può sconfiggere nessuno. E ti viene voglia di mandare tutti un po' a fanculo. Adesso riesco a comprendere chi non trovava parole. Sono stato male spesso, ma non c'entrava l'amore. Sono stato di merda, fisso alla finestra, ma dovevo prendermi ciò che mi spetta. Non mi scalfisce più manco una scheggia. Ci pensavo ogni sera, la luna era piena, ma fissavo il cielo guardando una stella. Ed ogni notte sembrava più spenta, no no. I momenti tristi ti fanno stare male. Ti farebbe incazzare anche la cosa più banale. È vero, a volte mi chiedo ma cos'è che voglio. Sto preso dalle mie fisse, speravo il futuro mi apparisse in sogno. La soluzione sembrava sempre restare da solo. Perdevo me stesso, poi per ritrovarmi sembrava facessi la caccia al tesoro. Sono stato di merda, fisso alla finestra, ma Gabriele Parisi, ci pensavo. Beh, un brano molto, molto particolare, molto attuale, direi, con questo rap, si dice così, rapper? Come si dice? Beh, dentro c'è un po' di tutto. Allora, Gabriele non segue gli schemi e si appassiona fin da piccolo alla musica italiana, soprattutto al mondo hip hop, rap, reggaeton, e questo, insomma, questo nuovo genere urban, no, che ci piace molto. La determinazione, la grinta lo portano così a superare i vari ostacoli per seguire il suo sogno d'artista, e arriva la Jungle Records con questa canzone scritta da lui e dal suo migliore amico, anche lui un artista in arte, in Nem, e quindi hanno scritto questa selezione musicale che è stata prescelta dall'etichetta come disco di lancio per questo artista, che insomma stupisce sia per il linguaggio un po' scurrile da una parte, ma dall'altra anche molto giovanile, molto accattivante, molto immediato e diretto. Benissimo, se sono rose fioriranno, come dico sempre a questo. Basta con queste rose, basta. Ma insomma, neanche Natale mi fa dire quello che voglio dire. Insomma, lei è un bacchettone, eh? Non ci sono le rose a Natale. Ma com'è? C'è la rosa dell'inverno, per esempio. E a questo punto noi andiamo con Fase, ci presenta Giuda. Ascoltiamolo. Rieccoci qua, sui binari di un 18, a sbronzarci per metà. E falla una foto, t'ho detto che è un gioco, sì, ma poi leva la maglia e spegni la luce. Quando apri gli occhi alle 3, e mi confondi le idee, se come un disco in loop ripeti le tue cose. Ma quando inizia sto film, mi sciolgo dentro al tuo drink, come il ghiaccio fa d'agosto sotto il sole. E giù da ride, mentre mi guardo le ferite che mi hai lasciato appese a un frigo, che senza te non alzo un dito neanche per pisciare. Mi guardi i video che t'ho fatto e cambio le lenzuola a letto, ma resti qui. Vetrata, uscire di casa con l'aurora, con 3 grammi e il mal di gola. Ah sì, andiamo alla grande, che solo 2 tacche e poi la morte. C'è scritto loser sulla fronte. Fase con la sua Giuda a Easy Pop Radio Città Fujiko per questa puntata numero 49 di oggi, domenica 18 dicembre. Mancano 7 giorni a Natale, Paoletti. Eh sì, in effetti io sono molto emozionato per questo evento, non vedo l'ora appunto che sia Natale, perché insomma ci sono le vacanze natalizie. No, va bene, oltre a questo insomma ci sono tante altre cose. Comunque parliamo e torniamo alla musica. Fase, il nome d'arte di Valerio Urti, artista autore torinese, già conosciuto per esempio dagli addetti ai lavori in passato come frontman del progetto Fase 39. E proprio da questo gruppo riprende questo singolo che abbiamo ascoltato ora, lo rifà e quindi lo rinnova in questa nuova veste. Del resto lui insomma lascia il gruppo per poi portarsi a comporre un EP, a licenziarlo, e ha raggiunto dimensioni live davvero impensabili, e soprattutto grazie a questo EP insomma arriva ai 150.000 contatti sui social, che non è poco, e quindi insomma si attira l'attenzione appunto degli addetti ai lavori, che insomma puntano molto su di lui. Quindi per questo ragazzo insomma c'è questo singolo proprio per Natale, appunto l'abbiamo ascoltato, si chiama Giuda. E a questo punto volterei pagina con DRKO Dirko featuring Ukulele con Giorni Morti. Testa da vanti a te, ma sono solo cose nostre che ci svegliano la notte, perché abbiamo preso troppe volte, tutta la vita sempre in forse, ma perché ora non ci vedo più. Danni sui danni, drammi nei drammi, sogni sui soldi. Hai detto che la libertà non è solo una fantasia, ma farsi male cadendo nei giorni morti, nel gin dei cocktail, e fare finta di star bene non porta a niente se non alla nostra età. Ma allora dammi la mano, proviamo ad andare insieme via da qui, come nel mare le tavole, le luci della città, sembra una scusa la fantasia. Sentirsi liberi solo nelle catene, sentirsi soli solo quando sono insieme a te. E nella testa vedo ancora certe scene, di notte la tua voce e le sirene. Ma vieni accanto a me, se vuoi ti faccio spazio. Uno di quei giorni morti in cui non c'è nient'altro. Sai, siamo cresciuti come fiori sull'asfalto, senza volerlo siamo parte del paesaggio. Perché ora non ci vedo più. Danni sui danni, drammi nei drammi, sogni sui soldi. Hai detto che la libertà non è solo una fantasia. Drrrko featuring Ukulele, Giorni Morti. Su questo brano io saluto Rachele della redazione culturale e musicale di Ukulele, che va in onda tutti i pomeriggi su Radio Città Fujiko. Un saluto a voi tutti da Easy Pop. E allora non è sbagliato aggiungersi ai saluti e aggiungere anche i nostri auguri alla redazione, perché insomma dubito molto che ci ritroveremo il 24 tutti dal vivo. Comunque sia, anche Franco Paoletti si accoda ai saluti. E a questo punto invece parliamo dell'artista che abbiamo in sottofondo, davvero interessante, DRKO Dirko, ovvero sia Darko, perché il nome proviene da Donnie Darko. Lei ha visto questo film bellissimo a mio avviso? Certo che l'ho visto, un cult movie Darko, diciamo uno di quei film generazionali che insomma così va visto almeno una volta. Allora, lui si chiama Lorenzo Passamonti, classe 1996, originario di Tarquinia, prende il nome appunto da Donnie Darko. Però se ci ha visto giusto la famosa Marta Venturini, ha visto qualcosa in lui, sicuramente è un ragazzo che insomma si farà strada ed è molto molto forte. Uno stile di linguaggio davvero interessante, anche questo singolo Giorni Morti insomma ci è piaciuto molto, quindi come vedi selezioniamo sempre sempre delle cose belle da andare a scartabellare. Cosa dice lei, Bolognese Volante, le è piaciuto? molto, se no la selezione non l'avremmo preparata. Adesso invece abbiamo La Raza con Vestita di Sera. Facciamo partire il brano che si è inciossato. Hey, hey, hey. Che ci penso, no, non voglio più perdere o perderti, no, non avrebbe senso. E poi mi stresso, baby, non sono perfetto e supero il resto, ma vivo di questo, scendi fai presto. Sotto le stelle ti ho vista, niente più lo stesso. Volevo una vita in tour, lo sai che bastavi tu a farmi volare, a dimenticare da non capire più. Vestita barbari colpisci forte, come la vita il tempo che scorre, come il vento che apre le porte, quello che sento è molto più forte. E io non so dove prendo l'idea, ti riprendo il mio film, mi rivedo stasera. Volevo averte contigo in tu solo vestito de sera. Non minimizzare cose dette male, in un borsello Gucci c'è nascosto il mare. Fuori è tutto uguale, fuori è tutto uguale. Io non so dove prendo l'idea, ti riprendo il mio film, mi rivedo stasera. Volevo averte contigo in tu solo vestito de sera. Non minimizzare cose dette male, in un borsello Gucci c'è nascosto il mare. Fuori è tutto uguale. Non mi passa mai, non mi passa più. Tutto cade a pezzi se non ci sei tu. So che tu l'apprezzi, ma se cado giù, ci pensavo ieri sempre di più. Che alla fine da bambino tu puoi esprimerti, a vent'anni già ti pongono dei limiti. E a me piace solo viverti liberi. Siamo grandi molto piccoli ma simili. Ero perso nei miei incubi di notte. L'universo riempie tutte le cose. Vedrò in alto il mio nome. Mi fai volare sopra come le giostre. Ad occhi chiusi io ti immagino, ah, come quando cambi un abito, ah, anche quando sono carico, per averti nel momento più magico. Io non so dove prendo l'idea, ti riprendo il mio film, mi rivedo stasera. Volevo averte contigo in tu solo vestito de sera. Non minimizzare cose dette male, in un borsello Gucci c'è nascosto il mare. Fuori è tutto uguale, fuori è tutto uguale. Io non so dove prendo l'idea, ti riprendo il mio film, mi rivedo stasera. La Razza e il suo brano Vestita di Sera. Paoletti, adesso ce ne parla, vero? Un mantra questo brano musicale, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto. Allora, La Razza è un personaggio davvero interessante nel panorama musicale. Lui in realtà è stato adottato ed è colombiano, però poi insomma è italiano ormai d'adozione, però insomma si è dato alla musica appunto italiana, e devo dire che ci è riuscito molto bene. Come dicevo, trasferito in Italia per adozione, lui si è approcciato alla musica così sperimentale, sul base techno pop e anche chill out, per poi arrivare insomma al rap, e un certo rap insomma di spessore e così di internazionale, più dal suono internazionale, diciamo così. Bene, siamo all'ultimo brano di questa prima parte della 49esima puntata. Andiamo su un brano internazionale adesso, perché ci viene proposto da Mike Sponza con Let It Fall. Qui si balla. There are times when everything seems so wrong, so hard to overcome, so hard to be strong. 'Cause this world is spinning so loosely now, and to greed and hate it seems to bow. But now let it fall, hallelujah, and whiten all the roofs of our homes, 'cause Jesus Christ. Light and light and no quest. Oh yeah, we have faith, still we're not craving arms. Let us all be safe. brano natalizio per concludere la prima parte di Easy Pop ad appannaggio di questo personaggio, Mike Sponza, chitarrista, cantante, compositore, insomma, internazionale. Lui praticamente ha prodotto questo album negli studi di Abbey Road, prolifico autore e raffinato artista del contemporary blues. Bene, ci fermiamo qui per quanto riguarda la prima parte di Easy Pop, rientriamo fra pochissimo, quindi non andate via. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. E rientriamo in studio insieme a Franco Paoletti e al Bolognese Volante in questa che è la 49esima domenica 18 dicembre 2022 per quanto riguarda appunto così l'anno 2022. Siamo agli sgoccioli, però noi abbiamo sempre tanta musica da farvi ascoltare. Iniziamo immediatamente con un giovane, Baldo Giovane, dalle grandi speranze si fa chiamare Ego e ci presenta Maschere. Da quando ero bambino sognavo solo una cosa, una vita migliore, ma mi mancava qualcosa. Giocare a pallone con gli amici nel parco, forse solo un diamante divenuto cristallo. Conosciuto il vero me in un giorno triste come tanti, mi ho urlato ascolta Davide, tu non sei come gli altri. Prendi carta e penne, libera le tue emozioni, così come il vento arriva al mare, fa volare gli aquiloni. È da una vita che trattengo tutto dentro, i demoni che petto forse son più grandi di me, ed ha imparato a criticare senza un senso. Quindi ogni giorno la gente indossa maschere, ma io non lo farò. Io non lo farò. Spesso di cercare la pace che ora non trovo, ma non mi arrenderò mai, ti dico provo e riprovo. E non resta a guardare l'alba di un nuovo giorno, so che sei la tempesta trasportata da un tuono. Riconosciuto il vero me solo guardandomi in viso, quando piangevo dentro ma fuori mostravo un sorriso. In fondo non c'è modo di cambiare ciò che siamo, maschere di un volto che non vediamo. È da una vita che trattengo tutto dentro, i demoni che petto forse son più grandi di me, ed ha imparato a criticare senza un senso. Quindi ogni giorno la gente indossa maschere, ma io non lo farò. Io non lo farò. Mi guardo allo specchio e sento che c'è qualcosa, il mio riflesso è diverso, sembra un'altra persona. Provo a raccontarti come davvero mi sento, quando sto a pezzi distrutto però sorrido e poi mento. Aiutami tu a sentirmi me stesso, senza maschera addosso, voglio togliere adesso. Ego, maschere, beh, un brano molto intenso questo, Paoletti, molto tosto direi. Anche molto interessante, una voce curiosa per Davide Geloso, in arte Ego. Lui nasce a Vignola nel 1998 e quindi, appassionato di musica fin da bambino, entra in contatto nell'estate 2019 a un contest e poi relativo campus al CET di Mogol, e poi piano piano, grazie ai contatti giusti, firma un contratto discografico con il Branco Publishing per la realizzazione di questo singolo e poi per lavorare a un progetto musicale molto molto interessante. Lui è l'autore insieme a Vittorio Valenti, che è il compositore del pezzo. Devo dire che ci ha stupito molto al primo ascolto, e quindi insomma ci abbiamo visto giusto, diciamo. A questo punto voltiamo pagina e ascoltiamo Under the Snow con Hills Cloud. Stuck on the rim of every cup I use. If words flew out first, just like they should, make more rhymes than any poet ever would. I can't focus on that. Something stops synapsing to my brain. Looks short and I hear from the back. Comes straight from my heart, light from the dead stars. I can't really focus on anything I don't care for. I mind up my own. Be a dream I'm too naughty boys. Woke up waiting. Trascinante questo brano degli Under the Snow e loro Hills Cloud, con queste atmosfere anni 80 che ci riportano piacevolmente, ahimè, indietro nel tempo. Sì, perché ricordano molto Simple Minds, gli U2, insomma quel pezzo di tempo, di periodo, che veramente ha dato un'energia impressionante alla musica anni 80. Ma veniamo a loro. Loro prendono il nome Under the Snow proprio dopo aver inciso nei primi 2010 questo un pezzo. È cominciato a nevicare quando sono usciti dai loro studi di registrazione e hanno detto: beh, sai che c'è, questo è il nome ovviamente da dare alla band. Under the Snow l'hanno preso come un segno e così è stato. Quindi grande energia per gli Under the Snow. Ci ascoltiamo la prossima invece. Diamo spazio a Fabio De Vincente, ci presenta Al Top. A me si beve, non si fa l'alcol test. A me si schescia come fa Kanye West. E non ho ancora messo in play il weekend. Questo weekend, questo weekend. Da me c'è il posto preferito dai VIP. Polizia, sciottini vicino. È il sesso più normale, è mainstream. Mainstream, mainstream. E siamo qui al top. Nati per essere qui nel top. Tutte le sere non dobbiamo dare il culo a questa mediocrità. Siamo in guerra per un posto, per la felicità. Qui nel top. Nati per siamo qui. Fabio De Vincente al top. Siete all'ascolto di Easy Pop sulle frequenze di Radio Città Fujiko sui 103.1 di Bologna. Chi vi parla è il Bolognese Volante, dall'altra parte ovviamente Franco Paoletti, che vi racconta un po' questi personaggi che andiamo a selezionare settimana per settimana. E devo dire che la musica italiana ha grandi talenti, insomma, da farvi ascoltare. Quindi se voi ascoltate appunto Radio Città Fujiko, ve li presentiamo settimana per settimana. Allora, Vincente è l'album da quale appunto Fabio Vincente ha estratto appunto questo singolo. Fabio De Vincente appunto al top, uno dei pezzi estratti, e devo dire che ha fatto questo video molto interessante nel ristorante, se non sbaglio, a Bali, e quindi insomma divertentissimo, un po' sopra le righe, però insomma ci è piaciuto il suo tipo di linguaggio e poi soprattutto la sua positività alla giovanotti, diciamo. Un personaggio da tenere sott'occhio è lui, ma altrettanto il prossimo, che si chiama Izzo Fitzroy, e ci presenta Good Gets a Little Buzzy Sometimes. Oddio, non l'ha detta proprio benissimo, soprattutto per il soggetto. God Gets a Little Busy Sometimes, che vuol dire Dio ogni tanto è impegnato a fare qualcos'altro. Father, will you hold out hope for me yet? I'm numb, I'm cut off from the neck. But I'll creep down the aisle looking for the exit. Will you still keep the light on even when I confess? Will you wait for me even if I take years? Holy is the one who saves, so they say. I keep praying for an answer, but I'll never find it on high. I'll make my way through troubled water, 'cause even God gets a little. The bottom of hell, in search of a lover to lay myself bare. But I roared until my tears ran dry and my body was overwhelmed. Silence reaps the benefits. I keep praying for an answer, but I'll never find. Izzo Fitzroy ci propone un brano abbastanza impegnato, quasi mistico, spirituale, con la sua God Gets a Little Busy Sometimes, ovvero Dio ogni tanto è un po' impegnato, giustamente anche lui. Beh, è giusto, soprattutto Natale, vero? Allora, ricordano anche un po' di Eurythmics in alcuni tratti. Primo frutto una collaborazione musicale con il compagno di etichetta Oscar De Jong del gruppo elettronico olandese dei Crack Smack. Questa canzone parla della profonda mancanza di stima provata come donna. Scritto sulla scia dell'omicidio di Sarah Everard, evidenzia quanto si sia sentita profondamente insicura come donna. E vabbè, dopo questo inno, insomma, così alle donne, noi a questo punto cosa facciamo? Ascoltiamo la prossima, vero regia? Certo, viene Viola Valentino e la sua Maladonna. Messie, voilà, sarei una mala donna, chiacchiere da bar, di gente che ha vergogna, chiusi in un cliché, e attenti a far cadere whisky sul pavè, amarmi ti conviene. Prendimi così, o ti pentirai. L'amore arriva ma non viene da Shanghai. Vuoi solo me, parli di lei, che ti promette il mondo è un mondo che non vuoi. Lai la la la, lai la la la, Maradona. Porta un altro Jack a questa Maradona, un bicchiere in più e un'altra sigaretta. Ho voglia di caffè, di rimanere sveglia, segno che non è soltanto la tua festa. Baciami così, o ti pentirai. L'amore è un viaggio ma non viene da Shanghai. Mi lasci qui, torni da lei, che ti promette lunga vita, vita a noi. Lai la la la, lai la la la, Maradona. Ehi mon amour, Maradona, sei un uomo fortunato, Maradona, che vuoi di più, Maradona, il destino ci ha trovato, Maradona. Ma donna io, la donna che la mala sorte versa due chateaugrie, la donna che la mitica Viola Valentino, quella della famosa canzone che si intitolava Comprami, dico bene Paoletti, ritorna con questa mala donna dopo alcuni altri brani che non ci ha convinto fino in fondo, dico bene Paoletti, mi è mancata la voce. Beh, con Ira Vox aveva inciso in coppia e devo dire che ci è piaciuto molto quel suono, altrettanto questo che è praticamente è il singolo che aprirà l'album di prossima uscita. Abbiamo ascoltato appunto Maladonna, nuovo singolo per Viola Valentino dalle sonorità urban, scritto da Germanelli e Francesco Mignona se non sbaglio, e Serena De Bari, canzone che insomma diciamo apre, fa da apripista per il nuovo album che uscirà appunto nel 2023 e che conterrà appunto i suoi principali successi come Comprami, Romantici, Sola e poi non ultimo Stronza, che aveva fatto un po' di tempo fa e che avevamo presentato, e ci sarà anche questo Maladonna. E a questo punto invece un bentornata a Viola Valentino, noi invece proseguiamo con D'Arte, ci presenta Ma stavolta no, D'Arte. Stavolta no, sei sobria da ubriaca, ti ho lasciata che strillavi I love you, sei malinconica più forte della musica, Dio anche ti perdonerà, ma stavolta no. E poi che cosa ti aspetti? Le farfalle non le vendono, non sento più le cose belle, la gente se le tiene strette. Ci salverà la primavera, penso che valga più di una preghiera. Da qui salverei tu, solo tu. Il giorno dell'apocalisse, stai tranquilla qui nessuno ce lo dice. Da qui salverei tu, solo tu. Ma stavolta no. Ho un'anima solitaria, per non contagiarti starò a casa mia. Noi potevamo fare la storia, un altro plagio come fosse nostra, ma stavolta no. Ci piaceva luci spente, io vedevo le stelle, tu provavi divertenti i miei difetti. Ora mi cerchi baby, ma stavolta non ci credi che ci salverà la primavera. Penso che valga più di una preghiera, da qui mi salverai tu, solo tu. Da qui nessuno ce lo dice, da qui mi salverai tu, solo tu. Ma stavolta no. la vita se l'aspetta che per stare bene stiamo chiusi in una bolla. E non mi importa cosa pensi, che se esausta ho detto basta. D'Arte è il suo brano, uscito proprio ieri, no, venerdì, pardon, quindi fresco fresco, con il suo nuovo singolo, ma stavolta no. Paoletti, ci parli un po' di lui che prossimamente lei intervisterà, glielo anticipo io così, gliela butto lì. Ah ok, io non so nulla, però la redazione lavora per me e come vedete anch'io apprendo, diciamo così, in corso e tutte queste notizie. Comunque mi fa piacere presentarvi Carmelo Irto, cantautore di origini calabresi, che noi avevamo già presentato in Arte, ovviamente si fa chiamare D'Arte, appunto, giusto? Ecco, a parte i giochi di parole, lui aveva già un'esperienza al CET di Mogol, poi dove si è trasferito appunto a Milano, poi piano piano insomma si è fatto strada nel mondo musicale e devo dire che si è esibito su palco importante come Radio DJ a Riccione insieme a Mahmood, Noemi, Carl Brive e tanti tanti altri, insomma. Questo è il suo nuovo singolo che ci è piaciuto appunto segnalarvi all'interno di Easy Pop, e poi di lui insomma ovviamente ne parleremo prossimamente nelle nostre interviste spin off, appunto nel nostro salotto appunto che si chiama Easy Pop. Bene, bene, bene, bene, regia, cosa abbiamo adesso sul piatto numero 2? Un altro brano dance con cui chiudiamo questa puntata numero 49. Vengono a trovarci la Griff con loro Not a Fantasy. Un'equipe artistica molto interessante, ha partecipato a diversi casting e concorsi e poi arriva a vincere Volto del premio TV dell'edizione 2022 di Sanremo New Talent, consegnatale da Maria Teresa Ruta a lei, la Griff, al secolo Sabrina Griffo, che ci presenta questo Not a Fantasy che ricorda paurosamente, no, gli anni 80 e quelle artiste che andavano poi di moda da Sandra e tante tante altre, insomma. Ci è piaciuto molto questo tuffo nel passato, queste reminiscenze, ma attenzione, il testo non è assolutamente frivolo. Non si esce da questi anni 80. Io invece approfitto per ricordarvi la nostra campagna abbonamenti. Sul sito www.radiocittafucico.it/abbonamenti trovate tutte le istruzioni. Vi ricordiamo che è molto molto importante e determinante per la nostra radio questo aiuto per tenere in vita l'informazione indipendente e la musica indipendente. Quindi cosa di più importante che dedicare un po' del vostro passo, del vostro tempo e delle vostre possibilità per aiutare la radio, vero Paoletti? Assolutamente così, quindi una piccola donazione sarebbe veramente d'aiuto e sarebbe anche un bel regalo ai redattori di Radio Città Fujiko. Una piccola donazione può essere un grande gesto per tenere in vita la radio indipendente di Radio Città Fujiko. Grazie. Sì, noi parliamo così di musica, ma anche l'informazione è importante, quindi trovate tutto sui nostri social, quindi andate a trovarli e poi insomma scegliete voi. Bene! Questa presigla ci dice che questa puntata numero 49 è terminata, è la penultima di questo 2022, la prossima sarà il 25 dicembre con una miscellanea, una compilation che prepareremo ad hoc, vero Paoletti? Perché non ci saremo in diretta. Esattamente così, allora spero vi siate divertiti con l'occasione e io vi faccio già gli auguri natalizi. Certo, e anche quelli di buona fine e buon principio, perché la prima puntata, la prossima domenica dopo Natale sarà il primo dell'anno, quindi diamo anche gli auguri di buona fine e buon principio, oltre a quelli di buon Natale, Paoletti. Esattamente così, e se vi sentiste soli, ovviamente ci sono sempre tutti i social e ci siamo noi a farvi compagnia, ovviamente con tutte le registrate appunto delle puntate precedenti che trovate sul sito della radio. Non andate via, perché la programmazione di Radio Città Fujiko continua. Vi auguriamo un buon proseguimento, una buona domenica e appunto tanti auguri di buon Natale e buona fine, buon principio dal Bolognese Volante e da Franco Paoletti. Bye bye. Bye bye. Avete ascoltato il Sip Hop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Da da da.